Ben ritrovati, ben ritrovate alla nuova puntata della Fuga del Gatto. Oggi domenica 30 aprile, l'ultima puntata di questo aprile 2017. Domani 1 maggio iniziamo, spero bene, il nuovo mese. Allora, oggi puntata speciale perché abbiamo un ospite in regia, un ospite che finalmente parlerà, ebbene sì, dopo essere stato ospite silente per almeno un paio di volte, credo, siamo riuscite a convincerla a parlare e ci racconterà un sacco di cose belle. E quindi salutiamo subito la nostra ospite Marghe. Ciao Marghe. E sì, oggi parliamo di un argomento un po' particolare, nel senso che non affrontiamo un autore in particolare o un'opera, come siamo solite fare con le soap opere mensili, ma parliamo un po' in generale di vari spunti che ci collegano al tema della musica per bambini. Ma non pensate subito male, perché chiaramente molti di voi saranno saltati sulla sedia pensando, non lo so, alle canzoncine, l'elefante, il bruco, queste cose. Come sono le canzoni per bambini? Non so, è passato troppo tempo. Eh sì, è tipo E quelle il dell'asilo. coccodrillo come fa? Esatto, lo so che te pensi quelle dell'asilo, Io tipo penso ci sono due quelle, no? coccodrilli qui. Ci sono Ah, due coccodrilli. invece no, perché qui ragazzi, No. come al solito, grandi numeri, ricchi premi e cotillon e Sì. grandi ospiti, soprattutto insomma, di una certa levatura che non è che adesso arrivano qui e così ci cantano le canzoncine dell'asilo, ma appunto. Ci faremo spiegare bene che cosa significa musica per l'infanzia nella musica classica in particolare. Sì, esatto, infatti noi siamo di una certa levatura Sì. e comunque non è che vi faremo sentire il coccodrillo, ma musica Che comunque lo classica. sappiamo, non è che non lo Che sappiamo, però, a parte la Mari si è scordato un pezzo, ma li sappiamo bene, coccodrilli, orangutanghi, Le robe varie. corni, Sì, le eccetera. corni, non si è mai capito che cos'erano, però No. invece oggi appunto, anche grazie alla nostra ospite, ci inoltreremo un po' in quello che è questo aspetto che non ci si pensa spesso, ma invece la musica classica, soprattutto quella del Novecento, come dicevamo anche fuori onda, insomma, è bacino di molti esperimenti e di molti avvicinamenti. E perché no, anche quella che poi non è nata esplicitamente come musica per l'infanzia può diventarlo secondo noi, ma non solo secondo noi, insomma. Sì, anche perché se no il luogo comune è solito, bisogna per far diventare intelligenti i bambini, mi tocca fargli sentire Mozart, che probabilmente è anche vero, non è che non fa mai male Mozart, tra l'altro non neanche solo ai bambini, ecco, Non io è che sto per farli diventare facendo. intelligenti, è che siccome i bambini sono intelligenti possono capire Mozart Tra molto meglio l'altro. di un No, io trentenne ogni ormai tanto faccio delle andato. sperimentazioni con Sì. Eh Mozart, fatto sentire i punk, ci sto provando, sì, lo insomma. so, ma sai, i punk ormai appunto magari i mezzi ce li siamo già persi, invece se li prendiamo da piccini, Ma io secondo credo in loro. me. Sì, always. Però insomma non c'è solo Always. Mozart, anche se comunque poi Anzi. Mozart ci arriveremo, perché comunque insomma non si butta via, però c'è altre cose, quindi iniziamo un po' la nostra indagine, la nostra scaletta, giusto? Sì, vogliamo Io partire dal. Sì, parto. sì, Dagliene sì. te, che sei quella più che ne sa di più, perché Esatto, noi non ne sappiamo niente. sei l'esperta chiamata apposta. Ok. Allora, prima di tutto, quello che volevo dirvi è che ho pensato un po' a questa trasmissione dividendola, diciamo, in due parti. Una prima parte in cui esploreremo alcuni autori di musica classica che hanno scritto appositamente dei pezzi proprio pensati per l'infanzia, pensati per i bambini. E come diceva prima anche Virginia, infatti noterete che sono quasi tutti autori, diciamo, del almeno primo Novecento, anche perché, come dire, prima di allora, quindi come dire, i bambini non venivano neanche considerati come possibili destinatari di un'opera musicale, perché ovviamente, come dire, i bambini hanno avuto uno status di persone pensanti e, come dire, vere e proprie solamente molto, molto tardi, per cui quasi Tutti, tutti. Ah, mi sentite ora? Pronto? Ci sì, siete? Sì. Devo ridire tutto? Temo di sì, perché in effetti avevo lasciato il microfono spento. Va bene, avevo lasciato il microfono spento. Vabbè, fantastico. Lo so, scusate. Ora sentite la mia voce? Bene. Mi sentite? Cari bambini e care bambine, ascolteremo adesso. No, scherzo. Cioè, quindi non si è sentito neanche quando hai detto ciao. Allora, Margherita, ridi ciao anche. Ciao, ciao. Beh. Allora, ricominciamo tutto da capo. C'è lo stesso problema anche col mio? Oppure no, no, ah, te si sente, solo la Margherita. Oh, era meglio il contrario. Vabbè, ma perché ho un microfono nuovo? Io non ero... Va bene. Non sei emozionata. Ecco, vabbè, non siete abituate ad avere qualcuno qui che adesso si mette a chiacchierare, che vi ruba la scena. E quindi, vabbè, allora... Cerchiamo di sabotare. Invitiamo anche gli ospiti e invitiamo noi, siamo arrivati a dei livelli di perversione. Bene, fantastico, veramente. Allora ricominciamo, a questo punto ne approfitto per ricominciare tutto da capo. Sì, benissimo. E prima di tutto ringraziare Virginia e Mari, che le nostre splendide conduttrici di questo programma, che hanno accettato questa follia di invitarmi a fare due chiacchiere con voi oggi. Dove la parola chiave è splendide, vorrei sottolineare. Beh, l'ospite, ovviamente voi non le vedete, ma sono meravigliose. Per dirlo. Non lo dico solo perché sono amiche mie, è vero, obiettivamente, se voi le vedeste sareste d'accordo con me. E la puntata di oggi avrei pensato di intitolarla Musica classica per bambini non buoni. Questo perché, prima di tutto, perché i bambini buoni non ci piacciono, non cioè ci in un interessa. Posto come questo, in una radio come questa, direi che i bambini troppo buoni ci stanno un po' antipatici, sono schifo. Noiosi. Ci non li abbiamo nemmeno schifo. Mai troppo visti. Non li abbiamo mai neanche visti, figuriamoci. Magari, vederli. E quindi viva i bambini cattivi e le bambine cattive, assolutamente. Le bambine cattive. La seconda cosa è appunto il fatto che avrei pensato di dividere la trasmissione in due parti. Una prima parte che intitolerei Grandi compositori per piccoli ascoltatori, ossia una serie di ascolti di compositori classici, moderni, in realtà che quasi tutti sono del Novecento, primi Novecento, che hanno scritto appositamente dei pezzi pensati per l'infanzia, e vi racconteremo poi nei dettagli chi, dove, come e perché. E nella seconda parte invece ascolteremo una serie di proposte totalmente mie personali, a mio gusto e a mia idea, una serie di proposte musicali che secondo me possono essere per vari motivi appetibili per le orecchie dei nostri figli, nipoti, studenti, alunni, insomma fate un po' voi. Vorrei dire anche un'altra cosa, che tutta questa idea di fare questa appunto trasmissione mi è venuta perché recentemente ho fatto un laboratorio teatrale nelle scuole con dei bambini di quarta elementare, e tra le varie cose che... Poveraccia, è una bella storia. Ma i bambini, insomma, ecco. Sono vista buia. Infatti, in effetti, è stato reciproco. Però la cosa interessante è che una delle cose che loro dovevano fare per questo laboratorio era proporre una canzone o un pezzo musicale che particolarmente gli piacesse. E ragazzi, sono rimasta allibita, perché i bambini di ora ascoltano della musica agghiacciante. Cioè, se ti portano Tiziano Ferro, sei fortunato. E questo è sfondi una porta aperta. Cioè, guarda. Portano Robbie Williams e tu, guarda, cioè, tiri un sospiro di sollievo, perché la media è della roba veramente che non si può sentire, della roba orrenda, e non faccio nomi, non voglio neanche dirlo, perché sennò qui veramente mi buttano fuori dalla radio. Quindi non si inventa nulla, oggi è si stava meglio quando si stava peggio. Esatto. E comunque io ho bisogno dei riferimenti, dei proverbi. Precisi. Persona, ecco, per cui da questa esperienza agghiacciante con i gusti musicali dei bambini di oggi, ho deciso che voglio spezzare una lancia in favore della musica classica e soprattutto, come dire, ribadire che il gusto musicale, come tutte le cose, è una cosa che va affinato nel tempo e che si può cominciare da giovani ad affinarlo. Si deve, maledizione. Anzi, perché si non deve. È che uno lo nacque, come disse Totò, cioè nessuno lo nacque, bisogna che qualcuno ce lo impara. Esatto, bisogna lavorarci un po' con i bambini, non si può pretendere che ascoltino le fughe di Bach subito così, senza preparazione, però nel senso sicuramente raro genio che si trova comunque confinato in questa stanza e ormai ecco. A distanza di anni dall'infanzia, quindi infatti poi ne parleremo, non voglio fare nomi perché poi sembra che, però ecco, e quindi sì, la raccomandazione è che se i vostri bambini mettono su Tiziano Ferro o Fabio Rovazzi, dategli un colpo in testa e fategli sentire Handel, non lo so, qualche cos'altro, però soprattutto, come dire, più che altro, più che questo, mi smentisco subito, più che dargli un colpo in testa quando ascoltano Rovazzi, è, come dire, buttar giù il rospo e però non dimenticarsi di far ascoltare i bambini della buona musica. Perché ricordiamoci una cosa, io ne sono convinta. Prima di tutto, chi l'ha detto che la musica classica non è per i bambini? La musica classica è assolutamente per i bambini. La buona musica, di qualsiasi genere sia, è per tutti, per i bambini come per i grandi, e i bambini sono perfettamente in grado di apprezzare, ascoltare e capire la musica classica come altri generi. Anzi, come dicevo prima, che comunque ho parlato da sola perché il tuo microfono era spento e ci ho fatto sempre una grandissima figura di quella che parla col fantasma. Vabbè, comunque io da piccina è evidente, insomma, ho subito diversi danni e quindi questo, ecco, io sono un po' l'esempio, come nei film di Woody Allen, no? Di lui da piccino, di quello che non si deve fare e che poi diventa così. Quindi io sono un po' l'esempio negativo, però come dicevo prima, appunto, proprio perché i bambini sono più intelligenti, sono capaci di comprendere certe cose a livello più magari istintivo, molto più, e hanno meno barriere, hanno meno filtri e hanno meno pregiudizi, per cui se un bambino lo metti davanti a una cosa che è effettivamente bella, poi la riconosce molto di più di un adulto che magari non ha avuto poi magari gli strumenti e si rifiuta di base. O che ha dei filtri. Comunque si rifiuta, cioè un po' rifiuta. Lo stesso discorso si potrebbe fare con la pittura, con l'arte in generale. In generale, se il bambino è difficile ti dica no, Mozart no, perché tanto non lo sa che cos'è. Quindi... No, ma infatti è tutta questione di abitudine, assolutamente. No. E sì, infatti, per poi riprendere anche quello che dicevi prima e per concludere questa piccola introduzione, è anche vero che la musica classica non è per i bambini, nel senso che, appunto, non si può pretendere di mettergli la sinfonia di Mahler e che i bambini saltino dalla gioia. Bisogna, come dire, fare un po' di lavoro, cioè semplicemente accompagnarli in un ascolto tramite vari metodi, vari modi che possono essere intanto portarli a sentire la musica classica dal vivo, che secondo me è il modo migliore, perché i bambini già quando vedono gli strumenti ed entrano in un teatro, già quell'esperienza è già qualche cosa che dà loro, come dire, il sentimento dell'importanza, della grandezza, della complessità anche di questo mondo. E poi, come dire, si possono usare molti metodi, fargli vedere film come Fantasia o Allegro non troppo, cui le nostre fantastiche conduttrici hanno dedicato spazio e tempo nelle puntate precedenti, portarli a vedere delle belle messe in scena delle opere e soprattutto spiegargliele, raccontargliele, accompagnare l'ascolto davvero con piccoli esercizi di creatività, pensare a che cosa queste musiche ci possono far venire in mente, che storie ci raccontano, ci possono raccontare, che emozioni ci fanno suscitare, e soprattutto stare attenti a non mai proporre la musica classica come una punizione rispetto alla musica del cavolo che ascoltano loro, ma sempre proporla in, come dire, come una cosa in più, come un valore in più, come qualcosa di bello da scoprire, assolutamente. Ah, tu dici, perché io invece già pensavo alla scena tipo Arancia Meccanica con tortura, perché mi sembrava una buona idea. Come al solito, sei una ragazza. Per i bambini più cattivi e più ostici, voglio dire, no, mali estremi, estremi di meglio. Noi siamo abituati con lo schiavo, che per fargli mettere un disco comprato dai tossici a Torino ci è voluto un po'. Cioè, nel senso, noi siamo abituati un po' i sistemi coercitivi, perché abbiamo a che fare con dei personaggi con la feccia, però, diciamocelo, ecco, magari con qualcuno, diciamo. No, semplicemente, ragazzi, vale sempre il solito discorso, cioè l'esempio è la cosa migliore di tutte. Sì. Cioè, se tu in casa ascolti la musica classica, ogni tanto metti su un pezzo di musica classica di giorno, di notte, di qualsiasi genere sia, cioè, e i bambini lo sentono, non ti dico quotidianamente, però d'abitudine, è chiaro che poi dopo, a forza di picchi e mena, è qualcosa che gli arriva. Poi diventano come me e non è bello, per cui, cioè, questo non lo fate a casa. Va bene, troviamo una via di mezzo, insomma, fategli ascoltare un po' di buona musica e cerchiamo di fargliela passare. Sono d'accordo. Anche alle feste, visto, quando si fa il gioco delle seggiole. Perfetto. Ci sono un paio di esempi di musica oggi che ascolteremo che forse potrebbero essere anche utili. Un paio sì. Va bene, sentiamo, io partiamo, sentiamocela un po' di bella musica, quindi potete chiamare da casa i vostri bambini e digli di venire, e i bambini, e iniziamo subito con Britten. Poi diciamo perché, o prima diciamo perché, lo poi so, iniziamo. Che si dice? Ma io direi, mettiamo un po' di musica, a me piace sentire la musica e chiacchierare poco, per cui sì, mettiamo, annunciamo però il pezzo e come si chiama e spieghiamo il perché e per come. Perché, sì, infatti, sì. Allora, me lo fate annunciare a me, sì. Allora, Benjamin Britten, l'autore, Cali, è vero. E Young Person Guide to the Orchestra, opera 24, scusate, 34, in particolare vi facciamo ascoltare del 1946 questo pezzo, attenzione, attenzione, Variazioni e fuga su di un tema di Purcell. Brevissimo incipit, non è stata scelta a caso, poi diremo perché, ed era l'accompagnamento, prima di essere la colonna musica di un altro film di cui parleremo, era proprio nato come accompagnamento per un film educativo prodotto dal governo britannico, proprio per spiegare appunto la musica, era, nasceva così. Madonna, ecco. Guarda quante, che operazioni culturali che fanno in Britannia. Quindi ecco, nasceva così, poi diremo perché l'abbiamo scelto noi e vabbè, poi si capisce insomma anche dal pezzo. Che... Lo sfumeremo a un certo punto, sappiatelo, allora, sfumeremo molti pezzi oggi. I più sgamati tra voi lo riconosceranno perché ovviamente insomma è un pezzo piuttosto famoso, proprio perché nasce come guida no, educativa e quindi... riconosceranno anche per essere la colonna musica di un altro film molto recente. Aguzzate gli orecchi quindi, Britten, Young Person Guide to the Orchestra. Thank you. Allora, sì, questa era una parte dell'omonima opera, appunto, citata prima, Young Person Guide to the Orchestra del 1946, che l'autore sottotitola poi Variazione e fuga sul tema di Foerzel, perché lui usa come tema centrale, usò appunto una melodia tratta dall'Abdelazar di Henry Foerzel, che comunque appunto è molto notissimo, forse uno dei maggiori compositori inglesi, e comunque molto molto classico, appunto, molto istituzionale. Non l'abbiamo fatto ancora Foerzel. No, è strano che non ve l'abbia propinato. Poi ve lo propiniamo così a capo e collo. E Britten crea appunto per la volontà che aveva per eseguire la colonna musica di questo film, era proprio un film educativo, quindi proprio il senso era proprio diretto, cioè spiegare come è composta l'orchestra e i vari strumenti che vi si trovano. E lui appunto aveva utilizzato questo appunto stratagemma del riprendere un tema appunto della melodia di Foerzel, e aveva fatto variazioni, aveva creato delle variazioni al tema per ogni strumento dell'orchestra, per ogni parte dell'orchestra, quindi i legni piuttosto che gli strumenti a fiato, piuttosto che le percussioni, gli archi, ora non so se l'abbiamo sentiti tutti, ma insomma ci sono tutti. Sta andando qui in sottofondo, esatto. Ancora proprio si sente perché qualcosa. Lui fa fare una variante per far individuare al giovane ascoltatore che magari non conosce come è composto un'orchestra. La struttura, cioè prende le parti e per ogni parte la fa eseguire a uno strumento, come se fosse un personaggio che prende la voce. E questo perché? Perché in generale nella carriera di Britten c'è proprio questo interesse, e si svela in svariate opere. Questa in particolare è una delle più famose, delle più riprese, infatti poi vedremo, ma in generale c'è proprio una folla di bambini che percorrono le pagine musicali di Britten e che ne connotano un po' anche il mondo poetico, l'ispirazione e proprio la caratteristica della musica di Britten stessa. Britten è uno dei maggiori compositori inglesi proprio perché si riesce un po' a distaccarsi dalla tradizione che era stata un po' quella della musica classica fino al primo Novecento, e aveva saputo un po' indagare il tramite che c'era tra appunto questo mondo immaginifico dell'infanzia e le strutture più canoniche e classiche che rimanevano nella tradizione della musica prettamente appunto orchestrale e classica. Quindi diciamo Britten, per Britten tra l'altro, appunto per il suo pensiero, l'infanzia non era solo un momento della vita, ma uno stato permanente della coscienza che ognuno di noi si porta appresso e che quindi caratterizza poi le scelte artistiche, e non un luogo un po' primordiale dell'anima in cui la creatività ha il suo maggior sfogo e a cui lui attinge come musicista durante tutta la sua carriera. Quindi non ha scritto sempre musica educativa o musica per l'infanzia, però l'infanzia è sempre stato un tema principale nell'opera di questo compositore, e non solo con quest'opera, che era proprio specificatamente didattica, addirittura commissionata appunto per il film del governo, ma in altri esempi, per esempio appunto l'opera sullo spazzacamino, piuttosto che l'opera sull'Arca di Noè, che vedremo poi più avanti, riprenderemo, e che parla proprio addirittura, i bambini sono protagonisti, sono proprio parte dell'opera stessa e attivi, quindi non solo musica educativa per insegnare ai bambini, ma i bambini sono parte del processo creativo e sono esecutori molto spesso. E qui io direi che arriviamo a un punto appunto nodale di questa cosa. Non è tutto questo discorso, come dire, ci fa capire come non sia casuale che Britten sia stato ripreso da da questo grande regista che è Wes Anderson, che ha usato non solo questa musica ma anche altre scritte da Britten in uno dei suoi film, secondo noi, almeno secondo me, Virginia, capolavoro dedicato assolutamente al mondo dell'infanzia, bellissimo, se non l'avete visto dovete vederlo, Maria, sto dicendo anche a te, che è Moonrise Kingdom, mai che visto. Si apre esattamente proprio con questo pezzo, in cui si vede la scena di questa casa con un gruppo di bambini e bambine, di fratellini, che inseriscono nel mangiadischi il vinile proprio di questo pezzo. E durante il film si sentiranno anche altri pezzi di Britten, e poi adesso arriviamo al secondo ascolto che vi spiego. La versione originale del pezzo di Britten, della Young Person Guide to the Orchestra, ha in realtà non solo gli strumenti ma anche una voce diciamo narrante, spesso interpretata essa stessa da un bambino proprio, che durante il pezzo, prima e dopo, introduce esattamente le varie famiglie di strumenti musicali, spiegando appunto passo passo quale strumento sta suonando quale momento del pezzo. Allora, noi abbiamo deciso, anzi io ho deciso arbitrariamente, di farvi sentire diciamo il Britten originale senza l'accompagnamento della voce, anche se si trovano vari esempi su YouTube, se lo andate a cercare si trovano, perché invece vorrei farvi sentire un pezzo della colonna sonora originale del film Moonrise Kingdom di Wes Anderson, in cui il compositore, che è Alexander Desplat, compositore francese contemporaneo, riprende il suo tema originale appunto della colonna sonora e lo declina proprio come Britten ha fatto sul suo pezzo, facendo sentire chiaramente tutte le variazioni del tema suonate dai vari singoli strumenti che compongono l'orchestra, con l'accompagnamento di una voce di un bambino che spiega gli strumenti. E Alexander Desplat, per chi non lo conoscesse, appunto è uno dei più grandi compositori di musica da film attualmente sulla piazza, e ha scritto colonne sonore famosissime di film hollywoodiani, ha vinto, se non erro, anche un Oscar per un altro film di Wes Anderson, che è Grand Budapest Hotel, che è il successivo a esattamente il successivo a Moonrise Kingdom. Esatto. È quello dopo, c'è Moonrise Kingdom e poi c'è Grand Budapest Hotel. Però lui ha scritto le musiche per Harry Potter, The Queen, sì. Altri film di Wes Anderson, Il discorso del re, addirittura per un paio di film di Garrone che sono reality e Racconto dei racconti. Per cui insomma è veramente un compositore coi contro coglioni, come si suol dire, e mi fa molto piacere farvi sentire questo pezzo, perché secondo me a parte tutto è veramente molto molto bello. Il pezzo si chiama The Heroic Weather Condition of the Universe, e noi ascoltiamo appunto l'ultima parte, che non sono altro che praticamente i titoli di coda del film, in cui appunto il tema principale della colonna sonora viene ripreso dai singoli strumenti e spiegati da una voce narrante di un bambino. Tra l'altro doppio avvitamento mortale, perché il titolo fa invece riferimento al di luce, le eroiche condizioni del tempo, fa riferimento sia all'opera Noé's Flood, l'arca di Noè di Britten, che nel film viene messa in scena, ovviamente. Sì, dai bambini della scuola, cioè, di questa isoletta. Ed è anche un riferimento al tempo, cioè questa scena in cui loro mettono in scena appunto l'arca di Noè. In realtà poi c'è un diluvio, proprio l'isola viene colpita da questo diluvio, quindi triplo avvitamento mortale. Cioè il pezzo è sia il pezzo di Britten, sia un riferimento alla scena non credo sia casuale la scena, direi proprio di no, conoscendo i miei polli. E il terzo strato è il diluvio riferito all'arca di Noè, all'opera di Britten, quindi proprio un torcinamento, però appunto funziona su più livelli. Io direi che se la Maria è pronta farei sentire. Sì, ora vediamo se mi funziona questo accrocchio dello sfumare, minutaggio. Io non, in genere si fa molto più alla grezza. Sono io che ho fatto le cose difficili. No, che c'è l'ospite, volevamo fare brutta figura. No, capito, microfoni spenti, minutaggio a caso. Proviamoci, dai. Punk che ci pervade sempre. Proviamoci. Thank you. Now we will demonstrate the orchestration of Mr. Desplat's musical suite. A little electronic metronome sets the time. First, a harp. Next, pizzicato cellos. Flute. And piccolo. Electric guitar. Ukulele. Classical guitar. Banjo. Thin wood blocks. And two more harps. Organ. Celeste. Old vibraphone. And piano. Pizzicato violins. Double bass. Tubular bells. And glockenspiel. The ride cymbal. Piatti. Snare drums. Grand cassa. Timpani. 16 baritone bass singers. Xylophone. Bassoons. Clarinet. French horns. Tenor sax. Trumpets. O no? Vabbè, questo bambino è diventato il nostro idolo. È stupendo. Punto, sì, me lo ricordavo dal film, ma ecco, cioè, se mi viene così, uno potrebbe anche essere disposto. No, infatti io volevo anche fare un appello, no? Se un bambino così, io firmo, però deve venire così. Io volevo fare un appello perché abbiamo dato dei consigli ai genitori, parenti, zii, amici dei bambini che, come si chiamano quelli che hanno a che fare con i bambini? Sì, gli amici dei bambini. Ma persone a cui piacciono i bambini. Abbiamo dato dei consigli sugli ascolti, però secondo me è tassativo e fondamentale far suonare anche sì, gli strumenti ai bambini. Sono d'accordissimo. Soprattutto non farlo come fa io da insegnante di canto che ha a che fare con i bambini, veramente faccio un appello alle famiglie. No, per favore, parcheggiateci i vostri figli nelle scuole di musica come se tipo tra il judo e il... generalmente è judo, pallavolo... Sì. E calcio, danza, cosa ci sarà ancora? E poi... ci buttano uno strumento così, e poi va a fare anche un po' di batteria, te lo sbuttano lì, così si sfoga. No, ecco, così il bambino ti arriva morto, distrutto, che non ne può più, punizione, viene lì, non gliene può fregare di meno. Invece se fin da piccoli uno abitua il bimbo anche a giocare con gli strumenti, è già un'altra cosa, e studiare musica, poi magari non diventerà un grande musicista e non avrete svoltato per generazioni, però comunque sì, gli avrete insegnato tante altre cose che non hanno a che fare necessariamente soltanto con la musica. Secondo me infatti è una di quelle cose che andrebbero, come dire, insegnate di default. È come quando hai 18 anni prendere la patente, poi dopo anche se non diventi Schumacher o comunque se non ti piace guidare, se non fai il camionista, però, cioè voglio dire, sono quegli strumenti che ti servono, e secondo me appunto imparare a leggere lo spartito e conoscere un pochino la musica è veramente fa parte del bagaglio culturale di base, il non ritmo, so come dire. Ma se me mi avessero insegnato il solfeggio da piccola, no, ma sai quante, cioè sarei molto meno scordinata. Tipo io che... A me me l'hanno insegnato, però io ritorno lì, il mio problema è un altro. Cioè, io sono proprio l'esempio, a me mi hanno insegnato il violino, il solfeggio, tutto, però rimango. No, vabbè, Vigi, potremmo anche dire, pensa come saresti stata se non te se l'avessero insegnato. Sapevi, cioè, È quello, è infatti, il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Ci insegniamo il solfeggio. E ora, ecco, dopo questa ridanciana considerazione e dopo questo appello accorato che mi sembra giusto all'educazione musicale, assolutamente la ribadisco anch'io. Direi che possiamo andare avanti veloce e affrontare un altro enorme, grandissimo classico che sicuramente tutti voi conoscete e con il quale sicuramente tutti voi siete cresciuti. È un altro esempio di... come dire, di pezzo didattico scritto per insegnare ai bambini a distinguere i singoli strumenti dell'orchestra e della composizione, che anche questo ha una commistione tra musica e voce narrante, in questo caso, che è Pierino e il Lupo. Prokofiev, e qui siamo arrivati. E vi toccate. Allora, qui non c'è scusanti, perché la Disney ci ha fatto pure il cartone animato. Orribile, peraltro. Non era proprio durava, il massimo della vita. Era insieme a un altro, non me lo ricordo mai. Erano di quei cartoni animati che facevano mezzo... Nella cassetta ce n'era due, tipo quello e un altro. E questo era abbinato a non me lo ricordo quale. Però, quindi qui, questo hanno visto proprio tu. Cioè, qui non c'è verso, non è che non lo potete... Sappiatelo. Cioè, qui non si può non sapere. Cioè, no, ma lo sanno tutti, è stato fatto in 10.000 modi, cioè è proprio un grande classico, anche perché a differenza di queste cose un pochino più, come dire, intellettuali di Britten, eccetera, eccetera, e anche di Desplat, che comunque non è che ha scritto per i bambini, ma chiaramente è un autore, diciamo, per adulti, per film per adulti. In questo caso qui, come dire, l'insegnamento didattico della musica passa attraverso il tramite della narrazione e della storia. Infatti i singoli strumenti non vengono spiegati e identificati semplicemente in quanto tali, ma addirittura diventano parte di una narrazione, personaggi di una storia. Infatti ognuno degli strumenti, ora sentiremo e poi anche Virgi ce lo racconterà meglio, ogni strumento, ogni personaggio della storia viene rappresentato musicalmente da un singolo o un gruppo di strumenti musicali particolari. Esatto, anche qui è della prima metà degli anni 30 del Novecento, che è del 1936, opera 67, e in realtà appunto nasce, come diceva la Marghi, nasce proprio come opera educativa, insomma, per l'infanzia, e in realtà per l'esecuzione, cioè ci possono essere due tipi di esecuzione, solo orchestrale o con l'ausilio, cioè di un narratore. Quindi Prokofiev in realtà aveva già previsto, non so se poi in realtà è stata mai eseguita fin dall'inizio così, però insomma è un'opera per orchestra che però si può avvalere della voce del narratore, quindi per l'accompagnamento all'orchestra. Musica e testo di Prokofiev, anche se credo si rifacesse a una vecchia favola russa, insomma. Sì, penso di sì, che la favola fosse qualcosa di, insomma, che appartiene alla tradizione orale, comunque un po' come tutte le fiabe, no? Ci sono un po' sempre i soliti personaggi che poi ritroviamo, il bambino che gioca, i suoi amici animali, il nonno, il cattivo della situazione, che ovviamente è il lupo, come in tutte le fiabe che si rispettino. Soprattutto quelle russe, perché comunque lì non mancava. Soprattutto quelle russe, ma poi tanto anche nelle nostre, poi alla fine qualche animale cattivo c'è sempre. E, vi direi che è un buon modo, come dire, soprattutto magari per i bambini un pochino più piccolini, per cominciare a svezzarli all'ascolto della musica classica in una maniera veramente divertente e carina, che unisce la narrazione, quindi il piacere di ascoltare una favola, una storia, con anche appunto la musica classica. Sì, infatti fu appunto nel 1936 che il Teatro Centrale dei Bambini di Mosca, proprio si chiamava così, comunque qualcosa di buono anche ragazzi loro. I russi erano avanti, non c'è verso. Sì, vale. E commissionò proprio la stesura di quest'opera a Prokofiev, un'opera musicale per i bambini che avvicinasse alla musica anche più giovani. Quindi qui c'è proprio nasce un po' come quella di Britten che abbiamo ascoltato la prima, nasce proprio su commissione a scopo educativo. Diventò in realtà, nonostante lo scarso successo iniziale, diventò invece poi uno dei pezzi più famosi di Prokofiev, perché veramente anche chi non conosce nulla di Prokofiev, però questa proprio non c'è verso. Un po' grazie anche alle versioni cinematografiche, a illustrazioni, a fumetti, eccetera, eccetera. Però, insomma, in generale questo è uno dei pezzi più famosi del compositore. Bene, io direi che possiamo anche farla sentire subito a bomba, se mai non sì, c'è niente da sì, aggiungere. Sì, non c'è da fare cose strane neanche con la playlist, ce la posso fare. Tocca fare un disclaimer, perché chiaramente vi facciamo ascoltare la versione del Benigni. Eh sì, perché noi abbiamo la versione nostrana. Che a me un po' mi piange il cuore, visto che Benigni si è rincoglionito completamente. Sì, però ai suoi tempi, quando ancora erano i suoi cenci, Benigni fece una bellissima versione, cioè Benigni era il narratore, in questo caso, di una delle versioni di Pierino e Lupo, sì, con la direzione di vogliamo Claudio dirlo Abbado. Ecco. Quindi, e la Chamber Orchestra, esatto, of Europe. Io avevo il vinile, ora non l'ho portato perché non lo trovavo, però sono cresciuta con questo vinile, che tanto c'aveva l'illustrazione, era bellissimo, appunto con la voce narrante di Benigni, e che è un'aggiunta simpatica insomma all'opera. No, certo, infatti ce lo vogliamo ricordare così, e ce lo vogliamo ricordare sia lui che Abbado, che non è morto, però insomma, per noi per noi abbastanza, no, come dire, io l'altra volta Slick Chick ho messo Berlinguer ti voglio bene, e adesso mettiamo questo, ce lo vogliamo ricordare così. E stava meglio quando si stava peggio. D'altra parte l'altra versione era di Branduardi, quindi insomma anzi potremmo fare un appello a qualcun altro che rifaccia un Pierino al lupo, in modo che possiamo magari farlo sentire. Uno che ci piace ancora. Sì. Per l'appunto c'è qualcuno che ci piace ancora. Però sto da fonte sicura che, per esempio, mio babbo, che lo so che voi non è un grande musicista, però con la scuola di musica di Sesto Fiorentino stanno mettendo in scena il Pierino al lupo. E allora lo registrassero e ce lo mandassero. Un saluto. Doveroso. Ce lo mandassero, almeno possiamo passare lui anziché il Benigni, appunto. Va bene. Però il fu Benigni all'epoca ancora non sospetta, è una vecchissima versione questa. Se ce l'avevo io da piccola vuol dire che insomma. Ecco. Va bene, Pierino e il lupo, dai, sentiamola. Posso raccontarvi una storia? Allora, c'era una volta, ma che non è una storia normale, questa è una fiaba musicale. E tutte le fiabe, voi lo sapete, hanno dei personaggi. Ma qui, in questa fiaba, ogni personaggio è rappresentato da un diverso strumento musicale. Pensate che soddisfazione! Ora, per farvi riconoscere i personaggi ogni volta che appaiono, io chiederò ai vari strumenti musicali di presentarsi a voi. State a sentire che roba, eh? Prima di tutto, l'uccellino. L'uccellino è rappresentato da un flauto. L'anitra dall'oboe. State a sentire l'oboe. Il gatto lo fa il clarinetto. il nonno, molto severo, è rappresentato dal fagotto. Il lupo da tre corni, eccolo che viene. E Pierino, l'eroe della nostra storia. Pierino è così importante che è rappresentato da tutti gli archi dell'orchestra. Poi ci sono i cacciatori, che sono meno importanti di Pierino, però sono importanti anche loro, e sono rappresentati dai legni. Pensate un po' che anche lo sparo dei fucili ha un motivo, ed è suonato dai timpani. Oh, abbiamo fatto le presentazioni, e ora immaginatevi la scena se entra dentro alla storia. Una casetta circondata da un grande giardino, circondato a sua volta. E sì, basta, non, la storia non ci interessa, volevamo soltanto i personaggi. Bella, sì, molto bella. Sì, e poi è molto carino perché ora chiaramente qui si sente solo proprio il tema, diciamo, dei vari personaggi. Poi durante la narrazione questi strumenti e questi temi hanno tutta una serie di variazioni a seconda di cosa i personaggi stanno facendo nella storia. C'è un certo punto, per dire, all'inizio l'anatra loca che litiga con il l'uccellino, e quindi diciamo che ci sono i due strumenti che dialogano proprio tra loro suonando insieme in una maniera concitata, proprio per imitare, diciamo così, il ritmo di una litigata, di una discussione tra questi due animaletti, così come quando il lupo arriva e si mangia l'anatra stessa. Insomma, tutti gli strumenti fanno appunto queste, proprio parlano, diciamo, non solo suonano, ma proprio parlano come se fossero proprio i personaggi della storia. Sì, infatti a me mi veniva in mente prima, mi sono dimenticata poi di dirlo, che se questa cosa vi interessa c'è anche una vecchia trasmissione di Radio 3 di qualche anno fa che si chiamava La musica spiegata a mio figlio, che di cui si trova comunque il podcast scaricabile sul sito di Radio 3, e secondo me era molto bella, cioè non ce n'è tante puntate, però insomma un po' ci sono, e era simile perché comunque sia spiegava, che ne so, ogni puntata era il contrappunto, ti spiegava come funzionava il contrappunto facendoti sentire appunto strumenti che dialogano tra di loro e linee melodiche che si intrecciano, quindi... Non lo so, è un altro spunto, magari se vi interessa sentitevelo un po', lì si va un po' più sul tecnico ma neanche troppo, insomma. Si va avanti? Sì. Allora, ora cambiamo totalmente, nel senso che dalla musica classica, diciamo scritta da un punto di vista didattico ma più come allenamento all'ascolto e alla comprensione della composizione e dell'orchestrazione, passiamo a un'altra opera. Totalmente diversa sia per stile che per funzione, diciamo così, che è la raccolta di piccoli pezzi per pianoforte Microcosmos del compositore ungherese Béla Bartók. Allora vi spiego un po' perché ho scelto questa cosa, che è una cosa che non conosce sicuramente nessuno, o comunque molto pochi, anche perché Bartók non è proprio esattamente sì, è molto conosciuto ovviamente, però non è proprio il più famoso dei compositori del Novecento. Allora, nel lontano 1980 qualcosa, quando andavo a scuola di pianoforte, avevo una maestra di pianoforte che si chiama, penso tuttora, Daniela Costa, che all'epoca mi sembrava una signora, ma doveva essere una piuttosto giovane, una bella signora mora, che aveva una grandissima passione per Bartók, e che praticamente mi ha insegnato il pianoforte facendomi suonare alcuni di questi pezzi. Allora, Microcosmos è infatti una raccolta di brevissimi pezzi per pianoforte, messi in, sono 153 se non erro in tutto, messi in ordine crescente di difficoltà, e sono stati scritti i primi due volumi, diciamo così, proprio per il figlio di Béla Bartók, lui li ha scritti proprio per lui, e quindi sono scritti in realtà non tanto per educare all'ascolto, ma proprio come strumento didattico per imparare a suonare, quindi da pezzi più semplici con melodie e arrangiamenti diciamo un pochino più elementari, si passa via via a una serie di composizioni sempre brevi, di difficoltà crescente, di, insomma, più o meno complicate. E è un'opera, come dire, molto moderna, infatti la sentirete proprio nel suono, nella scelta. I pezzi non sono neanche particolarmente orecchiabili, se volete, cioè non è che ci sono delle melodie ben riconoscibili, cioè sono, è un po' ostica come opera, io lo capisco, però ecco, io ci sono legata proprio da una questione affettiva, e secondo me è, come dire, un buon esempio di musica scritta sempre per l'infanzia, ma soprattutto, come dire, per i principianti, per i suonatori principianti, e quindi anche bambini, chiaramente. Eh sì, ce l'ascoltiamo subito? Ma se volete, sì, sì, io direi. Microcosmos dal volume secondo, dal 37 al 51, io ho scritto questi appunti, e sì, poi la sfumeremo anche questa, ci ascoltiamo un po' l'inizio, l'incipit. No, l'ho rimesso Pierino e Lupo, scusate. No, oggi niente, proprio... Thank you. Beh, insomma, io non so se questi erano facili, immaginiamoci quelli difficili. No, in realtà infatti questo è il secondo volume, per cui sono, diciamo, i pezzi l'avanzato. Intermediate, un pelino più avanzati, diciamo. Però a me quando ho riascoltato questi pezzi ora per preparare la trasmissione, mi sono venuti veramente dei brividi, perché essendo che sono pezzi appunto non proprio con delle melodie semplici, molti non me li ricordavo assolutamente, ma riascoltandoli in questa versione mi sono ritornati in mente tutti quelli che avevo studiato anch'io da ragazzina, e devo dire che li ho ritrovati bellissimi, cioè sì. Proprio molto delicati, particolari e proprio belli. Ora la Virgi ci voleva dire qualcosa su Béla Bartók. Volevo dire che sì, il fatto che lui sia stato sia un insegnante all'Accademia, quindi probabilmente... questo chiaramente l'ha messo un po' nella posizione di didatta, ma in generale lui era proprio un compositore, musicista, era proprio un etnomusicologo, cioè è stato uno dei pionieri dell'etnomusicologia, cioè dello studio e della raccolta delle tradizioni musicali che vengono da, appunto, dalle tradizioni popolari. Perché appunto lui era ungherese, ha vissuto poi anche insomma in Slovacchia, in Ucraina, in Russia, ma in generale appunto portò avanti tutto uno studio e fu ispirato poi da tutta la musica popolare tradizionale delle regioni, e in particolare anche delle canzoni popolari della Transilvania piuttosto che ungheresi, ecco, e quindi questo chiaramente lo influenzò, insomma si sente molto nella sua nelle sue composizioni, si sentono queste sì, anche queste scale non usuali. Dal 1907 ottenne il posto all'Accademia Reale di professore in Ungheria, quindi questo probabilmente insomma oltre alla carriera pianistica lo mise poi nella posizione di poter insegnare, e da qui anche questi esercizi, no? Sì, infatti, ecco, stavo dicendo che se avete potuto notare che sono proprio esercizi didattici propedeutici, in cui in ogni pezzo si cerca, come dire, la composizione serve proprio per allenare determinate abilità anche delle mani. C'è un pezzo in cui magari c'è la mano sinistra che fa un accompagnamento ripetuto sempre uguale, la mano destra invece fa delle variazioni, ci sono dei pezzi in cui le due mani vanno all'unisono, l'accompagnamento ha magari delle variazioni a seconda del pezzo o di un altro, per cui sono proprio studiati proprio per la didattica musicale effettivamente. Sì. Quindi ringraziamo la mia maestra Daniela Costa, chissà se la rincontrerò mai, però ecco, mi ha lasciato questa eredità, devo dire. Omaggi. Sì, anche che una volta tanto che i maestri sono bravi non e vengono ricordati, mani, come sì. Di solito hanno fatto. Insomma. Comunque, in realtà poi dopo ora pensavo che di composizioni di grandi autori classici, anche diciamo semplici per allievi, in realtà ce n'è uno spicinio, sicuramente qualche insegnante di musica vi può fare più che degli esempi, insomma, da Schumann a Schubert, insomma ce n'è stati veramente di tutti i generi, lo stesso Bach, per cui ecco, io ho scelto una cosa un pochino meno conosciuta, anche per così, per farvi sentire qualcosa di nuovo. E di tuo. E di mio. E di completamente mio. Diverso. E ora cominciamo, come dire, facciamo un intermezzo tra questa prima parte e la seconda parte, perché mi piacerebbe, appunto, ho chiesto alle nostre due conduttrici di fare loro una piccola proposta di un pezzo classico che in qualche modo ricollegano alla loro infanzia. Se hanno magari un aneddoto da raccontare, ce lo raccontano, e così tanto per, come dire, cominciare ad arrivare un po' al cuore della cosa, ossia pezzi di musica classica che magari non sono stati scritti per i bambini, ma che per noi rappresentano, come dire, dei ricordi o delle emozioni che in qualche modo ci portiamo dietro dall'infanzia. Chi vuole cominciare? Virgi. Ecco, vai, comincia la Virgi, anche perché io la prima. Virgi laggiù in fondo, al banco là. Interroghiamo Bardoni. Bardoni era sempre, che era la seconda, e quindi toccava comunque, saltavano il primo, non si è capito perché. Vabbè. E allora, raccontaci. Io so questo problema, che mi sono già giocata tutto, in tutte le puntate abbiamo fatto della fuga del gatto, più o meno, c'erano pezzi o comunque argomenti, quando abbiamo fatto lo schiaccianoci, fantasia. Anch'io. Cioè io mi sono già venduta tutto, perché comunque così sono una ragazza che si butta. Ed è stato un problema anche per me, poi per selezionare gli ascolti, perché naturalmente dovevo eliminare tutto quello che le due fantastiche conduttrici hanno già fatto sentire nelle puntate precedenti, che era stato poco. Poi devo dire che il mio grande problema è stato che io sono cresciuta in una casa in cui fondamentalmente la musica classica era passata il 90% anche per radio, perché alla vecchia Radio Montebeni, io l'amavo, c'era Radio Montebeni all'epoca, veniva in casa mia, c'era la televisione, c'era solo la radio, proprio che sembra che sono cresciuta all'Ucraina degli anni 30 e un po' era così, perché alla fine ecco, c'era la radio accesa tutto il giorno, Radio Montebeni, che era bellissima perché ti arrivava anche il bollettino a casa, quindi quando ti piaceva qualcosa andavi a vedere a quell'ora cosa c'era, era divertente. Per cui ecco, devo dire che grazie a chi mi ha così tenuto in un grande isolamento culturale televisivo, mi ha però aiutato in questo senso. E quindi appunto, figli di un'educazione libertaria, ricevono questo, e quindi tantissima musica classica, cioè i miei ricordi d'infanzia sono legati tantissimo alla musica classica. In più mi è stato fatto anche studiare il violino con scarsissimi risultati, che però ora so fare il solfeggio, quindi si diceva no, male, tante volte qualcuno ci avesse bisogno, e quindi è ok. In più devo dire che in particolare per oggi ho scelto uno tra tutta questa miriade di pezzi classici che mi porto dietro e per cui mi ci vorranno anni di analisi per dimenticare, mi sono scelta un pezzo di Britten, di nuovo volevo fare la secchiona come al solito, essere in tema, perché oltre a tutta questa roba facevo anche danza classica, quindi ero proprio la bambina sfiga, danza classica, e siccome era una scuola molto, insomma, molto importante, insomma, e questi saggi, c'erano i saggi, uno dei balletti per un saggio quando ero piccola era proprio coreografato con le coreografie montate su un pezzo di Britten che io ho sempre chiamato Playtime, ma ho scoperto oggi si chiama invece Playful. E infatti non cercate su YouTube Playtime Britten, perché trovate roba orribile. Trovate un film di Jacques Tati che in realtà è bellissimo, si chiama Playtime, ma questo è anche cani e gatti. Quindi io ho scelto questo pezzo in particolare perché ho questo ricordo, siccome questa coreografia era abbastanza difficile e me l'avevano fatta provare alla classe di balletto per mesi, allora anche a non volere, anche se non ti piaceva, comunque ti rimaneva in testa. E questo è uno dei ricordi più carini così che ho, tolti tutti quelli che mi sono già bruciata. In particolare mi è sembrato giusto oggi, perché parlando di Britten, e questo Playtime parla proprio di un pomeriggio di gioco, quindi di bambini che proprio giocano, quindi della riproduzione della palla che rimbalza piuttosto che del suono, e Britten era proprio si era ispirato a questo momento di gioco dei bambini, e anche la coreografia del balletto appunto mi ricordo che mi è rimasta qui, perché insomma veramente imparata a memoria. Era proprio una situazione così, del balletto riproduceva proprio questo compasso di danza classica, però il gioco. E non vorrei dirlo, ma anche questo pezzo di Britten fa parte della colonna sonora del sopracitato film Moonrise Kingdom di Wes Anderson, che appunto abbiamo detto dedicato al mondo dell'infanzia, per cui come dire usa Britten in tutti i modi possibili e immaginabili. Quindi io direi che ce l'abbiamo pronto e vi facciamo sentire qualche minuto. Allora, il nome completo Britten Simple Symphony Opera 4, e credo che sia il secondo movimento. E comunque sì, Playful pizzicato, detto per intero. Sentiamocelo. Non è colpa mia, giuro, è il pezzo che fa così. Thank you. Bellino, era bello, sì, era bello. Era difficile il balletto, non lo ricordo come è venuto. Ci niente. Credo. Era veramente tremendo, non lo ricordo. No, io ho un ascolto, cioè voi avete scelto tutte le cose molto delicate, belline, tutte un po' sofisticate, la mia è un grande classico, un po' tamarro. Che però certo. Secondo me è molto preciso per introdurre poi la seconda parte della trasmissione in cui effettivamente ci vuole un po' più, sentiremo un po' più di energia, ecco. Sì, e anche delle voci, perché finora sì. Le voci effettivamente a parte narratori non c'erano. No, allora io era anch'io ovviamente mi sono giocata gran parte delle cartucce nelle altre puntate con Fantasia l'ho visto miliardi di volte, insomma vabbè, i grandi classici me li sono fatti tutti, ma sono stata abituata fin da veramente piccolissima, quindi 3-4 anni, ad andare all'opera. Mi portavano all'opera e anche lì insomma si capisce poi le turbe successive, esatto. E come mai si finisce a fare La fuga del gatto, però mi portavano all'opera, io avevo ovviamente a 3 anni 4 anni, tu capisci fino a un certo punto, cioè era una sorta di suggestione, devo dire, almeno ora forse mio babbo e mia mamma mi potrebbero contraddire, però io non credo che mi addormentassi più di tanto, cioè io ero comunque esaltata ad andare all'opera, mi piaceva un sacco. Era fallito perché in realtà ti portavi a farci addormentare, finalmente. Invece no io dormivo sempre perché tanto col sonno c'ho un po' letargia, no, è che effettivamente mi piaceva tantissimo, guardavo esterrefatta, poi mio nonno ad esempio invece faceva questa cosa che mi regalava le cassette con le opere registrate. Quindi avevo la Ida, la Traviata, la Carmen, registrate su cassette e me l'ascoltavo fino alla nausea, proprio adoravo l'opera. E poi è stato bello perché poi senza soluzione di continuità sono passata dall'opera ai Clash. Cioè non c'è stato un passaggio. Comunque è una ragazza, cioè, sempre un parecchio estrema. Direi che ci piacciono. Sì. E poi sono tornata al barocco in età adulta. Sì, hai visto che cose strane la vita? Sì, effettivamente così, gli estremi. E quando mi portavano all'opera, appunto, io rimanevo estasiata, ma chiaramente della trama non è che capissi veramente tu, cioè non è che proprio capissi cosa stava succedendo. Ogni tanto guardavo, come si guardano nei libri, guardi le figure, capivo, non so, c'è lui, c'è lei, s'agitano, ogni tanto fanno un balletto, ma non è che veramente capivo tutto. Ad esempio mi ricordo la Madama Butterfly, e mi era piaciuto tantissimo, ma boh, io ti dovessi dire che cosa succedeva. Ecco, poi dopo vi darò dei consigli in questo senso per quanto riguarda l'ascolto dell'opera per i bambini, poi se ne parlerà. Io ero boh, ma ci sta pure che me l'avessero spiegato sicuramente, io però insomma 3 anni... Tra l'altro un po' scabrosa, insomma io non è che proprio capissi, cioè da grande ho detto, ah sì, davvero, diceva quelle cose, vabbè. Ecco, e questa cosa mi è successa con La Traviata in particolare, io l'ho dovuto confessare ai miei genitori in tarda età, e loro hanno detto, vabbè, allora abbiamo una figlia scema completamente. Deludendoli, finendoli di deludere sì, totale, perché io La Traviata avevo completamente frainteso, cioè non avevo capito niente. Innanzitutto, vabbè, ovviamente non avevo capito La Traviata chi era, la donnaccia, tutti questi risvolti qui verdiani, io ovviamente non avevo capito niente. Avevo capito che comunque sì, c'era questa storia d'amore con Alfredo, e poi, grande finale, quando c'è Alfredo, che non so, ovviamente voi tutti ve lo ricorderete, no? Cioè, perché vecchio tutti Alfredo. Siete fissati come me. E, cioè, grande finale in cui Alfredo, loro due litigano. Non vi sto a fare, insomma, come si dice, lo spoiler, ma insomma finisce che lui gli tira i soldi in faccia, e lei da lì a poco, cioè poi la scena dopo, muore. Beh, sì. Allora io da piccina, 3 anni, ho collegato, ho messo le cose insieme, ho detto, mia mamma in effetti mi ha sempre detto di non mettere i soldi in bocca, che portano le malattie. E Alfredo, che poi io chiamavo Alfredo, cioè, Alfredo, Alfredo gli ha tirato i soldi in faccia e lei gli ha passato, si è presa le malattie, perché si sa che i soldi portano le malattie, ed è morta poverina per questa cosa. Ed io ho interpretato ma fino ed al... ecco perché siamo poveri in canna tutti quanti, siamo rimasti traumatizzati da questo pensiero, i soldi portano le malattie, schifo, combattiamo, mi raccomando, no, ma fino a... cioè, ma questa convinzione comunque mi è rimasta, ora non vorrei dire che fino a ieri l'altro, però insomma quasi, cioè, comunque è una parte di me un po' è ancora convinta che la vera ragione per cui è morta Violetta era quello. E quindi niente, questo era il mio aneddoto, gli altri non ho grandi aneddoti se non suggestioni e impressioni generali e cose che ti restano a pelle e te le porti dietro, però non ho altri aneddoti divertenti. Quindi io in realtà avrei voluto farvi sentire la scena finale, ma in realtà è un recitativo, una roba che chi se ne frega, e quindi vi faccio sentire il grande classico, sempre libera, però della... come si dice, la divina Maria divina, Callas, la divina, che ancora no. Non l'avevamo troppo considerata, no, non sarà ancora fatta, ma forse mai sentire, però la divina si vuole, no, è incredibile, io tutte le volte la sento, no, comunque sia, mamma no. Mia, sì. La maledetta aliena, sentiamola. Il giorno muoia, sempre gli mandi i ritrovi. questa voce, mamma mia, davvero. Come sì. Si fa? Ma come hanno fatto poi a cantare dopo la Callas? Infatti, si sono vergognate parecchio. Cioè, io non l'avrei più detto, vabbè, basta, casa. È andata così. Non, come dire, non stento a credere anche da bambini sentire una cosa del genere ti possa rimanere impresso, ora a parte tutto, perché veramente possa creare questi danni poi, ecco, sì, no, al di là del cerebrale, poi anche le singole voci veramente ti rimangono dentro, secondo me ti lasciano proprio delle tracce, ci sono certi ascolti che ti rimangono, poi ti ritornano magari da adulto, che anche se lì per lì non l'avresti mai detto, secondo me è un po' come tutti i ricordi dell'infanzia, un po' come quel profumo, quel sapore, quell'odore, c'è anche quel pezzo, quella musica, quel timbro di voce che anche a distanza di anni ti fa rabbrividire di piacere, però chiaramente. Bene, per cui grazie sì. all'intermezzo ai contributi di Virginia e di Mari che hanno contribuito a questa cosa. Devo dire che questo ascolto che Mari ha proposto adesso mi è molto comodo per introdurre la seconda parte, finalmente ci siamo arrivati, della trasmissione di oggi, che è appunto ascolti di musica classica per bambini non buoni. E facendo un rapido aggiustamento della scaletta, vorrei parlarvi proprio dell'ascolto della musica, dell'opera lirica, effettivamente. Allora, l'opera lirica, secondo me, per quanto probabilmente a voi vi sembrerà strano, secondo me è uno dei modi migliori in assoluto per avvicinare i bambini all'ascolto della musica classica, per vari motivi. Prima di tutto perché abbiamo a che fare con delle storie. E chiaramente come dire, usare la storia per, come dire, far capire anche ai bambini che cosa vuol dire la musica, che cosa la musica sta raccontando, è chiaramente un modo molto, molto interessante, molto utile e può essere anche divertente. I bambini le storie piacciono sempre molto, anche se bisogna dire che spesso e volentieri l'opera lirica ha delle storie anche, come dire, un po' adulte, con delle tematiche magari d'amore, di relazione, oppure con degli intrecci particolarmente complicati che non sempre si prestano, diciamo, ad essere apprezzati dai ragazzini più piccoli. O fraintesi, come nel mio caso. Oppure fraintesi, effettivamente. È vero però che ce ne sono altrettante invece che, come dire, hanno delle storie che sono proprio delle favole. Abbiamo sentito nella scorsa puntata o due puntate fa Il Fauto Magico di Mozart, che ovviamente è un classicone in questo senso, ma anche opere che non voglio dire, come la Turandot, per esempio, può essere benissimo raccontata a un bambino come se fosse una favola, una storia di un principe che cerca di conquistare la principessa inaccessibile superando le tre prove, cioè proprio, come dire, un classico della fiaba per bambini, poi vi direi. E così ce ne sono anche molte altre. Ecco, un consiglio che mi sento di dare per... cioè, non pretendete dai vostri figli che si sciroppino tutta l'opera così e che l'apprezzino anche solamente al primo colpo, ma cercate di fargli capire soprattutto la storia, la trama, i personaggi, cioè di che cosa stiamo parlando, di che cosa stanno raccontando questi personaggi. Vi posso assicurare che questo è un metodo che funziona anche con gli adulti che, come dire, non amano molto la lirica. Se si fa un po' di lavoro di introduzione spiegando i sentimenti, spiegando l'intreccio, vedrete che anche quelli più ostici riusciranno ad apprezzare meglio la musica lirica e a superare lo scoglio del ma questi gorgheggiano, non si capisce niente di quello che dicono. Non è vero, ci si può arrivare a capire, si può arrivare ad apprezzare. La seconda cosa che vi direi è che in Italia noi siamo fortunati da questo punto di vista, perché chiaramente la maggior parte, cioè molte opere liriche sono in italiano, il che consente anche ai bambini, con un po' di allenamento chiaramente, però, di capire le parole, cioè che non è una cosa da poco e che è molto, che aiuta molto nell'ascolto, perché io, capendo le parole, si sa quel personaggio veramente che cosa sta dicendo. Questo non vale magari per Il Flauto Magico di Mozart, come abbiamo detto, ma per moltissima opera da Puccini a Verdi, ma anche lo stesso Mozart, chiaramente il fatto di poter capire le parole ci aiuta molto in questo senso. Un terzo elemento, sono quattro in tutto, quindi così lo sapete, un terzo elemento è la messa in scena, perché come ci raccontava Mari poco fa, già l'esperienza di entrare a teatro e i teatri dell'opera, ragazzi, non sono teatrini, intendiamoci. Sì, solo, anche solo l'ingresso ti capito? Stupisce. Cioè, sono posti grandi, pieni di gente, con soffitti alti, quelli antichi poi sono bellissimi, che hanno tutti appunto stucchi, tutto soffitto, e non vi dico. Vedere l'orchestra dal vero, cioè vederla suonare, vedere gli strumenti che suonano, affacciarsi nella buca dell'orchestra tra un intervallo, tra un atto e l'altro, e poi la messa in scena. Io, per dire, un ricordo fortissimo che ho della sopracitata Turandot è quando i miei mi hanno portato a vedere alla Pergola, se non erro, la Turandot messa in scena dall'Opera di Pechino. Cioè, ragazzi, era una cosa splendida, meravigliosa da vedere. Cioè, l'opera lirica ha degli allestimenti che fortunatamente nella maggior parte dei casi, come dire, sono anche belli da vedere e sempre più suggestivi, per cui ecco, anche i bambini possono secondo me trovarci, come dire, un godimento anche proprio visivo, visuale, no? Di quello che è poi la messa in scena con i costumi, con gli attori, con la scenografia, e vedere il coro, insomma, dai ragazzi, è uno spettacolo, l'opera lirica è bellissimo. Ecco, se ogni tanto, noi alla Fuga del Gatto siamo un po' fissate, se ogni tanto facessero delle opere un po' diverse da quelle quattro che fanno sì, sempre, sarebbe so, bello, ma purtroppo... Tipo quest'Arca di Noè di Gritten, mai più... morti. E da già tanto se ci fanno vedere Wagner ogni tanto sembra una cosa strana. Il problema di quelle, come dicevi Marghe, sì, in Italia siamo fortunati, però anche no, nel senso che questo repertorio alla fine si limita sempre a quelle 10-15 opere solite ripropinate in tutte le salse, però purtroppo, ma anche, guarda, non ti voglio dire, veramente perfino il Fantomagio viene fatto meno rispetto alla Traviata, cioè nel senso, sì, è vero, siamo fortunati perché c'è un bel repertorio, però poi purtroppo si è incancrenita come istituzione ed è sempre solo quella, e quindi è raro che capiti, insomma, ogni tanto capita qualcosa di diverso. Sì, no, effettivamente sì, anche perché purtroppo appunto in Italia, come dire, sempre pensiamo, no, la musica lirica che barba, è noiosa per i bambini, non la possono seguire, si annoiano, si stufano. Non è noiosa proprio perché viene riproposta sempre la solita. Esattamente. È vero. Di Britten, tipo questa di Britten del diluvio, piuttosto. Beh, noiosa anche per i genitori probabilmente. Sì, perché piuttosto che sarebbero secondo me anche più stimolanti. Poi ci sono in realtà delle operazioni, no? Vengono fatte anche al maggio, ci sono delle compagnie che poi cercano di, quando c'è l'opera grande, cercano di fare anche quella per i bambini, a ridotto. Magari, sì, sì, ci sono dei tentativi. Piuttosto che, però sono sempre un po' scolastiche, come spesso, come impostazioni. Sì, un po' calate dall'alto. No, e anche perché in realtà di opere, diciamo, classiche, moderne, cioè del Novecento, anche scritte per i bambini, ce n'è diverso. Ora mi viene in mente che anni fa fecero proprio qui al Teatro Comunale La piccola volpe astuta di Janacek, che per dire è un'opera che non conosce nessuno, che è bellissima, la misero in scena con tutti i cantanti vestiti da animali, con tutti i vestiti antropomorfi, che era una cosa, ragazzi, di una bellezza indescrivibile. Cioè, voglio dire, un lavoro così, un bambino, chiaramente, se tu gliela racconti, gliela spieghi, gliela introduci un pochettino, secondo me è perfettamente in grado di amarla e di apprezzarla, perché in, insomma, di roba bella da vedere ce n'è. In questo il mondo anglosassone, come sempre, mi dispiace, però ci supera, perché attraverso il musical, per esempio, attraverso una forma come quella del musical, è molto più facile, senza arrivare alle trecciate del Re Leone, però voglio dire, ci sono un sacco di bei musical tratti, che ovviamente non è l'opera lirica, però secondo me è più facile portare un bambino a vedere Cats piuttosto che magari o piuttosto che magari portarlo alla Traviata. Cioè, è chiaro, no? Perché il musical c'ha già un'impostazione più pop, c'ha già quindi sarebbe già uno scalino differente, ma siccome in Italia questo non c'è, si passa subito, cioè o ti vai a vedere l'opera o nel mezzo c'è poco, o il teatro musicale, però insomma allora si parla di un'altra cosa. Infatti io andrei avanti veloce a questo punto e proporrei un ascolto di un'aria che mi direte, vabbè, che banalità, la sanno tutti, ma secondo me non è detto, e secondo me è perfetta in questo senso, perché ricordiamoci, chiaramente per i bambini le cose più facili da ascoltare sono le arie, perché hanno dei motivi riconoscibili, diciamo orecchiabili tra molte virgolette, e ce ne sono alcune in particolare che secondo me possono far breccia nel cuore anche dei bambini più ostici. Una di queste, che io, per dire, ho anche usato in uno spettacolo di teatro che ho fatto per i bambini con il teatro di figura,

città, della città, della città. No, l'applauso meritato. Bravo. Bellino. Sì, ora mi era venuto in mente mentre sentivo questa, che nella stessa cassetta della Disney di Pierino e Lupo, perché i canali non ce l'avevo, ma le cassette le potevo vedere, non è che ero proprio come lo schiavo, insomma. E, c'era un altro cartone animato, bellissimo, forse ve lo ricorderete, che si chiamava La balena o gola d'oro. Era proprio, erano due pezzi, una cassetta del 46 della Disney, ed è la storia di questa balena che ha tre ugole e sogna di cantare in tutti i più famosi, in tutti i più famosi teatri dell'opera. Canta dal mare, la sentono cantare, quindi proprio la gente si avvicina. Il problema è che questo cattivissimo come si dice, non mi viene, impresario dell'opera è convinto che il gabbiano Gianni si chiamava, tra l'altro, non il gabbiano, cioè, nomi, scusate, veramente. No, la balena Gianni la balena in italiano, in inglese non voglio sapere com'era, comunque Gianni la balena era stato Jack, sì, tipo. Di sicuro avesse ingoiato un cantante, no? Perché ovviamente gli animali devono essere sempre cattivi, e lui aveva ingoiato il cantante, per questo cantava così, e quindi lo cacciano proprio alla Melville, cioè gli vanno dietro, lo arpionano e lo uccidono. È chiaro, no? È chiaro, perché che no? Fai? Infatti. E lui però continua a cantare in paradiso, ovviamente la Disney ci mette il finale agrodolce, però era molto bellino perché durante tutto il cartone animato lui si vedeva cantare le varie parti, tra cui questa che abbiamo appena sentito, e poi canta un pezzo della Lucia di Lammermoor, è bellino perché lui ha tre ugole e fa tutte le voci maschili, quindi basso, baritono, tenore, le fa tutte lui perché ha tre ugole. Hai capito, la balena Gianni. Ci sta precisa la balena Gianni nei teatri, va fuori un po' la testa, è bellissimo. Lui fa tutti questi sogni, canta appunto dal Barbiere di Siviglia, Lucia di Lammermoor, Pagliacci, Tristano Isotta, insomma ne canta diverse, finché poi poverino non viene ucciso e continua a cantare poi. E tra l'altro la voce del doppiatore, una delle voci che doppiava sia il narratore sia la balena, era Alberto Sordi, che Sordi aveva studiato anche canto lirico, era un bravo cantante. Per cui ecco, insomma, e tra cui poi la voce in realtà originale era di Nelson Eddy, che era un attore, un cantante statunitense. Nella versione italiana Alberto Sordi e Saturno Meletti. Quindi ecco, questo era un altro dei modi, se si ritrova la cassetta, Pierino e il Lupo, e io ce l'ho ancora. Se qualcuno, cioè, la cassetta vuole, se la ritrovi, se la presto, poi tanto non sai dove infilartela. Però qualcuno, ma ci sarà anche il DVD ormai, la verità. Dai, sì. E la balena o gola d'oro, molto bellino. Bene, quindi come vedete in realtà poi dopo viene fuori dal dire ma non c'è un accidente di musica classica per i bambini, in realtà c'è un sacco di cose come sempre succede. Allora, io andrei avanti veloce anche qui e passerei al prossimo ascolto, ne abbiamo ancora diversi da farvi, da proporvi. Rimaniamo su Rossini, che secondo me è uno degli autori, come dire, che da questo punto di vista ha scritto delle cose più divertenti e come dire, più riconoscibili, che anche sicuramente possono essere interessanti anche per un pubblico di piccolini. E vi facciamo sentire allora un pezzo dall'ouverture della Gazza Ladra, anche qui super classicone, che sicuramente conoscete, anche se probabilmente, come è successo a me a riascoltarla, a me in realtà il collegamento mentale mi è venuto con Arancia Meccanica di Kubrick, quindi tutto meno che per bambini, vi dirò la verità, inevitabile, ma in realtà un collegamento invece, diciamo, alla mia infanzia in questo senso, perché a ripensarci bene mi è venuto in mente che c'è una versione dell'ouverture della Gazza Ladra con l'animazione visuale di Lele Luzzati, quindi anche, come dire, un disegnatore, uno scenografo di teatro che, cioè, grandissimo italiano, che io mi ricordo che ha fatto questa specie di cartone animato, diciamo così, da lui disegnato, proprio sulle note della Gazza Ladra di Rossini, che ora ascoltiamo. Eh sì, eccola qua. Thank you. difficilissimo fare i volumi su questo pezzo, perché ti passa da un bassissimo, un pianissimo a un fortissimo, ma vabbè. Ma se c'è qualcuno che può riuscire, quella sei tu. Cavoli, c'è votamente. È vero. Ragazzi, io veramente Rossini lo adoro, infatti poi ve lo rivoghiamo anche alla fine, ve lo dico già subito. Tutte le salte. Ma passiamo, saltiamo proprio di palo in frasca e invece non potevo in questa playlist non mettere il mio amatissimo Wolfi Amadeus Mozart. Beh, anche perché si è detto che fa diventare bambini intelligenti. Esatto. Infatti. Cioè, proprio appena sentono un overture. Questo, noi siamo così e volevo tornare lì. Oltretutto, lui è stato un bambino intelligente, nel senso che lui la musica classica l'ha scritta da bambino, oltretutto. Lui, poverino, perché... non è proprio stato bambino, ecco. Se vogliamo dirla tutta, ma questa è una polemica mia. Insomma, è una lunga storia. Un'altra volta. Però, ecco, se c'è un autore classico, super classico, che veramente fa... deve essere fatto ascoltare ai bambini, veramente. Cioè, dateglielo in vena, perché non si può fare a meno. Ascoltatelo quando avete la pancia, siete incinte, mettetevi le cuffie sulla pancia, perché ragazzi, Mozart è tutto. Io sono parziale, sono di parte, lo so, ma secondo me quella leggerezza, quella passione, quell'inventiva, quel brio, veramente quell'allegria anche che traspare da alcuni pezzi, e quella, come dire, veramente quella gioia musicale che da alcuni pezzi arriva, e quella incredibile capacità di essere immediatamente riconoscibile, quel timbro che veramente è solo suo e che veramente da 700 ora ce lo portiamo veramente nel cuore, e che davvero bastano due note per riconoscerlo. Infatti vi facciamo sentire Eine kleine Nachtmusik del 1787, che sicuramente le nostre conduttrici avranno citato anche quando hanno parlato del film Amadeus, perché per l'appunto nel film viene citato proprio questo pezzo all'inizio. Il vecchio Salieri fa sentire al prete due note di questo pezzo, e il prete subito, immediatamente, tac, si ricorda e riconosce il pezzo ed è in grado di canticchiarlo e di andare avanti, proprio perché è forse uno dei pezzi veramente classici più conosciuti al mondo. E Salieri gli si rompe qualcosa dentro un'altra volta. Si incazza da morire. Perché prima gli aveva fatto sentire il suo e non lo riconosceva nessuno. Ma ragazzi, Mozart è inconfondibile. Sì. E quindi secondo me, ecco, abituiamo i nostri bambini a sentire Mozart veramente fin dalla più tenera età. Vi apprezzeranno e vi ringrazieranno quando saranno grandi. Vai. Sentiamola. Thank you. Dobbiamo sfumare. Sì, ma io continuo a dire, secondo me, cioè, delle musiche così, capito? Cioè, ti viene, puoi ballare, ci puoi montare uno spettacolo, puoi far fare veramente qualsiasi cosa. Ora io, che lavoro con i bambini, appunto, faccio anche i corsi nelle scuole, spesso e volentieri uso pezzi classici come questo, che hanno magari un andamento ben riconoscibile, con degli attacchi, no? Che si possono isolare e che si possono riconoscere facilmente, che i bambini possono cogliere e imparare immediatamente. E vi dirò che pezzi come questo sono veramente preziosi, perché davvero danno ritmo e insegnano ai bambini veramente a seguire l'andamento della musica, le variazioni, pianissimo e fortissimo. Quindi è proprio... Anche allenano la memoria musicale, secondo me. Esatto, anche secondo me. E Virginia aveva trovato che di Mozart c'era in realtà un altro pezzo interessante, sì, che avremmo potuto in farvi sentire. In realtà no, era del padre. Il padre. Leopold aveva composto musica per giocattoli. In realtà è una composizione piuttosto bella. Ora, chiaramente non è all'altezza di quelle di Mozart. A lui i giocattoli non gliel'ha dati, però no. aveva composto questa... sinfonia per giocattoli per i bambini degli altri, molto eseguita, quindi era, non me la ricordo bene, però insomma mi ricordavo che, quindi ecco, excursus. Volevo fare ancora un brevissimo inciso velocissimo, che è appunto in realtà anche la musica del Novecento, quella proprio la musica concreta, sperimentale, ha tentato sempre di fare un approccio, chiaramente non si parla di musica classica, però per esempio Berio, lui aveva dedicato e voleva insomma la musica concreta potesse avere uno scopo didattico e potesse essere appunto approcciata ai più giovani, forse ancora di più della musica classica. La musica concreta ha degli strumenti tali come appunto l'ascolto, no? Appunto del suono, la spazializzazione, insomma, che ancora di più, io ho lavorato in questo senso spesso con i bambini per un approccio diciamo alternativo alla musica, che non fosse solo quello insomma, sinfonico o dello strumento. E ecco, anche la musica concreta del Novecento ha dato, la musica sperimentale ha dato spesso il suo contributo in questo senso, proprio perché per sua natura, no, si tratta di rendere oggetti musicali anche gli oggetti della vita quotidiana, e quindi in questo gli oggetti appunto che si trovano sia all'esterno, nell'ambiente, quindi il paesaggio sonoro che c'è intorno ai bambini è spesso molto utile ai bambini stessi per riprodurre dei suoni che poi non per forza devono diventare sinfonici o propriamente, insomma, classici. Però, ecco. Ecco, sì, infatti, sì, anche questo, infatti, ragazzi, di cose da dire ce ne potrebbero essere veramente milioni e purtroppo il tempo è tiranno, ma appunto c'è, cioè, ricerca musicale per i bambini, chiaramente, soprattutto nel Novecento ne è stata fatta molta e di varissimo genere, per cui sicuramente anche questo è un ambito molto interessante. Io direi, andando avanti, abbiamo ancora tre ascolti ora, quindi dobbiamo correre. E il prossimo è proprio tutto un altro mondo. Volevo scegliere una musica per bambini per conciliare il sonno, una ninna nanna, un qualcosa per farli dormire, anche se poi i bambini in realtà possono dormire anche con le cannonate, i timpani che suonano, pam pam, è uguale, quando hanno sonno dormono con qualsiasi musica, però quando così, non hanno sonno, però ecco, casino, allora non c'è verso, ha voglia mettergli Mozart. E invece che la famoserrima, che lì sbaglio, la celeberrima ninna nanna di Brahms, che è proprio la ninna nanna classica, che io, ragazzi, era di Brahms, non lo sapevo, se non me l'avesse detto mio babbo ieri sera, pensavo di farvi sentire un pezzo altrettanto celeberrimo che è la Gymnopédie di Erik Satie, ho detto giusto? La Gymnopédie. Gymnopédie, ecco. Mari, vuoi dire qualcosa, che visto che sei una appassionata? No, no, Erik Satie in realtà mi piace un sacco, in particolare la Gymnopédie numero uno, che faremo sentire, è uno dei miei pezzi preferiti di sempre. E... però sì, no, in realtà tutto quello che avevo da dire su Satie l'ho detto nella prima puntata in assoluto della Fuga del Gatto, quindi se volete andarvi a sentire questa archeologia della Fuga del Gatto, c'è disponibile nei podcast. Poi ora, sennò è tardi. Ecco, visto che comunque l'ora di andare a dormire per i bambini si avvicina piano piano, vi facciamo a sentire un assaggio di questa, di questo pezzo, così non vi addormentate anche voi, tanto saremo brevi. Sì, ve la sfumiamo, perché sennò davvero poi crollate dal sonno. Poi domenica pomeriggio, brutto, no. Erik Satie, Gymnopédie numero 1. Con la morte nel cuore tocca sfumare questo pezzo, però d'altra parte, insomma, andava fatto. Sì, devo dire che la scelta oggi è ardua, perché di pezzi musicali dedicati ai bambini o che possono essere apprezzati appunto dai più piccoli c'è veramente un'infinità, ed è stato molto difficile anche per me fare una selezione. Sono rimasti fuori moltissimi pezzi importanti che avrei voluto farvi sentire, ne cito alcuni così en passant, per esempio la marcia funebre per una marionetta di quando Gounod, facciamo quella... la puntata horror, con la puntata horror per favore recuperiamola, perché quella è veramente fantastica, oppure di Tchaikovsky l'Overture 1812, che mi ha sempre consigliato mio babbo, che è un pezzo diciamo guerresco e bellicoso con cannoni che sparano, quindi è molto divertente. E ho lasciato invece volutamente fuori uno dei pezzi classici più amati dai bambini, non si capisce bene perché, che è La Primavera di Vivaldi, perché ragazzi non ne possiamo più, ma vi posso assicurare che le volte che i bambini ti propongono la musica classica ti spadellano La Primavera di Vivaldi, dici vabbè che palle. Inno alla gioia, anche a me, anche l'Inno alla gioia, insomma ce n'è veramente un'infinità. Però penultimo ascolto della trasmissione, ho scelto un valzer, e non un valzer qualsiasi, ma un valzer molto moderno e anche molto famoso, reso famoso da, per tutt'altri motivi, anzi da un film che più adulto non si può, che è il valzer numero 2 di Shostakovich, quindi un valzer diciamo moderno, contemporaneo. L'ho scelto perché volevo scegliere un valzer in generale, perché per dare un esempio di una musica che possa servire per insegnare ai bambini a contare il ritmo musicale. Secondo me il valzer da questo punto di vista è uno dei come dire, dei ritmi più facili, sì, che i bambini possono immediatamente imparare a riconoscere e appunto a tenere il tempo. Sono d'accordo. Un 2-3, ragazzi, cioè più facile di questo c'è solo 4 quarti forse. Però è più facile il 3. Secondo me è più facile il valzer, e quindi dovendo scegliere tra l'infinita varietà ovviamente di valzer tutti meravigliosi che esistono nel mondo, ho scelto questo perché mi piace particolarmente e perché anche in questo caso l'ho usato per uno spettacolo per bambini con esiti molto felici, per quanto sia un valzer serio e molto adulto, però secondo me appunto niente è troppo adulto e troppo serio per i bambini, bisogna farglielo ascoltare comunque. Shostakovich, valzer numero 2. Oddio, piange proprio il cuore a sfumare, sì, questi pezzi. Strabello, un miliardo di film, appunto si diceva, cioè in un miliardo di film. Sì, io lo adoro particolarmente, poi a parte appunto i valzer mi piacciono tutti, però questo proprio lo trovo emozionante, ecco, insomma, mi faceva piacere farvelo sentire. E, siamo ormai alla fine, io direi, adesso lascio la conclusione alle ragazze qui che vi danno un po' di annunci della settimana e i loro contatti. E direi che, ragazzi, la raccomandazione è questa: fate ascoltare ai bambini della buona musica di qualsiasi genere sia, e non vi peritate a fargli sentire veramente anche la musica classica, perché è come dire, un'infinita possibilità di emozioni, di scoperte, di storie, e è davvero. La potete usare in tutti i modi, per farli dormire, per farli giocare, per farli correre, saltare, recitare, laboratori, spettacoli, ogni cosa. Usate la musica classica per i bambini e loro veramente da grandi vi ringrazieranno. Anche perché secondo me, io ve lo dico così sottovoce, ma secondo me è una scusa perché anche i grandi ascoltino la musica classica, perché non è che poi i genitori sono così... No. Sta scusa, ora ti faccio sentire questo pezzo che io conosco benissimo, e non è vero, però almeno... Così se l'ascoltano insieme. Si rinfresca la memoria. Sì. Ebbene sì. E no, gli annunci appunto, in realtà oltre ai Social Wombat che ormai conoscete a memoria e che vi ricordiamo in particolare il sito wombat.noblogs.org, dove potete guardare tutte le novità e gli orari del palinsesto e quant'altro, e poi la mail sempre da ricordare, posta wombat@insiberia.net, gli altri contatti socievoli non ve li do, tanto ve li ricordate, e voi che siete mondani. E poi vi volevo ricordare un po' di appuntamenti, in realtà non tantissimi perché siamo in ritardo, però ve ne do almeno due che ci tenevo a rinfrescarveli. Uno è il 1° maggio, domani, sì è un lunedì, ma insomma è 1° maggio, non ci avete da fare, che dovete fare? Dovete andare al solito banale picnic? No, andate a Mondeggi perché c'è la festa del 1° maggio, dove si parlerà di lavoro, si cercherà di colmare le lacune cognitive che abbiamo sulle nuove meravigliose e entusiasmanti leggi sul lavoro, e quindi si capirà insieme un po' che cosa ci hanno fatto in questi ultimi anni e che cosa ci tocca di subire, e insomma nella cornice di Mondeggi Terra Bene Comune, quindi insomma tutto queste meravigliose campagne fiorentine e chiantigiane. E invece altro appuntamento per quasi a fine settimana, sabato 6 maggio, vi invito ad ascoltare una volta di più Radio Wombat, perché faremo la diretta qui in una delle nostre misteriose regie, ma comunque la diretta con collegamenti dal corteo che c'è il 6 maggio in Val di Susa, la marcia da Bussoleno a San Didero, e quindi tutto il pomeriggio sarà dedicato alla diretta da questo corteo, con un po' il resoconto minuto per minuto di quello che sta succedendo, con un po' di contatti da lassù. Quindi mi raccomando, ovviamente se invece andate alla marcia fate bene, c'è anche il pullman organizzato dalla piana contro la nocività e tutto quanto, però se insomma non ci andate, non potete andare, vi consiglio assolutamente di ascoltare la nostra diretta che vi terrà aggiornati. Detto ciò, abbiamo altro da dire? Io volevo fare un inciso un po' su Accademia della, so che quelli dell'Accademia della Brusca saranno contenti, così, perché in realtà tutto nasce dal fatto che perché Playtime di Britten, play in inglese è sia suonare che giocare, quindi dice che cioè volevi fare volevi cioè, dire, perché non è che io sono scema che me lo so, no, perché comunque 3 ore dopo non ci sono arrivata, perché comunque il mio cervello funziona così a tratti, e quindi appunto play in gli inglesi come al solito la sanno lunga, però giocare e suonare si definiscono con lo stesso, sì, e non solo, anche recitare, e tra anche l'altro recitare, in esatto, senso teatrale, okay. Per cui. Quindi eccoli, ancora una volta ci fregano, quella la semplicità ti frega sempre, però è indicativo, perché questa bellissima puntata che la nostra grande Marghe ci ha così ci ha concesso, ovvero graziosamente dalle sue altezze, e ancora una volta play with music, in realtà play e basta. Vi lasciamo con il Rossini. Marg, ci vuoi dire qualcosa? Molto semplicemente che vi lasciamo con un Rossini trionfale, così finiamo veramente in bellezza, ossia con l'ouverture del Guglielmo Tell, che ragazzi è un ottimo pezzo per far giocare i bambini ai cavalieri, alla guerra, alla marcia militare, per farli saltabeccare da una parte all'altra. Per cui buon ascolto, buon Rossini, buona musica classica e buonanotte bambini. Grazie Marghe, e ci risentiamo con voi tutti e tutte domenica prossima, sempre alla Fuga del Gatto, sempre su Wombat. Ciao ciao! Ciao a tutti!